Mi è sembrato interessante il problemino sottoposto da una signora milanese alla rubrica delle lettere del Corriere della Sera, che va pubblicata domenica 16 gennaio. La signora, dunque, possiede 3 pellicce, che però non indossa più, e non perché siano passate di moda o consumate dalle tarme, ma per mutata scelta ideologica. Da un po', spiega, partecipa a un gruppo che si occupa di animali e bioetica e ha ripudiato le inutili crudeltà sui nostri fratelli a 4 o più zampe, tra cui ovviamente quella di cacciarli o di allevarli per farne pellicce. Non è un'animalista fanatica e né presumibilmente vegetariana. Considera una forma di civiltà il fatto che, virgolette, nel sud trattano bene i maiali che allevano e se li fanno amici e poi li uccidono secondo antiche regole, che è una proposizione che farebbe rizzare i capelli in testa all'onorevole Apuzzo, ma insomma alle pellicce ha rinunciato. E di quelle che aveva acquistato a suo tempo, di quelle 3 pellicce che aveva acquistato prima, questo è il vero problema, non sa che cosa fare. Bruciarle o buttarle via le sembra assurdo. Regalarle ai poveri anche, non le pare un'idea. Una, tra l'altro, una è una pelliccia di leopardo di montagna, in ottimo stato nonostante l'età. La curatrice della rubrica simpatizza, ma non è in grado di consigliarle niente di concreto. Anzi, esclude una possibile via d'uscita facendo notare alla sua corrispondente che non può neanche venderle quelle pellicce e devolvere l'incasso ai poveri o al movimento per la lotta ai pellicciai, direi io, perché quegli oggetti del dubbio in questo modo tornerebbero in circolo, sarebbero nuovamente indossati e sfoggiati con grave nocumento generale della causa animalista. Questo è quanto. Se la signora avesse sottoposto il problema a me, probabilmente le avrei consigliato di tenersele con cura le sue pellicce, vagheggiando come naftalina, perché l'ideologia antipellicista, occhio e croce, mi sembra un po' in ribasso, soprattutto qui da noi. Le stole di pelliccia e i cappotti di montoni si vedono in giro più di prima, e chissà, anche lei magari potrebbe cambiare idea, però forse sarebbe stata una risposta scortese, perché la signora ha tutta l'aria di essere sincera nelle sue convinzioni, di non dipendere dalle mode del momento, neanche dalle mode ideologiche. E anche la considerazione che un vero animalista dovrebbe preoccuparsi più degli animali vivi e vegliare che non siano scuoiati e ridotti a soprabito oggi, perché quelli ormai defunti e confezionati ormai poverini, vale solo fino a un certo punto. Rinunciare a una pelliccia probabilmente non fa gran differenza per i leopardi di montagna a suo tempo sacrificati per produrla. Ma cosa sarà un leopardo di montagna, tra l'altro? Non saprei. Ma indossarla è un gesto con una valenza simbolica di cui giustamente l'animalista convinto deve tenere conto. Ma il fatto è che se non indossare le pellicce è un valore, ed è facile proporsi di non comprarne una, a chi ne possiede già una dispiace buttarla via, e il motivo per cui gli dispiace, anche se non lo esplicita, è chiarissimo: perché le pellicce costano. Forse non sono un valore in sé, ma un valore ce l'hanno, un valore di tipo venale. Il contrasto adombrato nella lettera al Corriere della Sera non è altro che l'antico contrasto tra Dio e Mammona, tra il mondo dei valori morali e quello dei valori finanziari, i quali ultimi notoriamente vincono quasi sempre, sono alla base del nostro intero sistema sociale. Tanto è vero che sono riusciti a produrre persino una morale del denaro, no? Uno dei cui dormi è quello che non bisogna dilapidare i propri beni, pellicce comprese, se no, almeno secondo Dante, si finisce dritti dritti insieme ai suicidi nella selva infernale in qualche bolgia dell'ottavo cerchio dell'inferno. Ora, che delle classi di valori diversi si oppongano le une alle altre, succede piuttosto spesso. Ma se la mettiamo in questi termini, vedremo che il vero problema della signora milanese non è quello di cosa fare delle sue vecchie pellicce, che in fondo chi se ne frega, ma è quello di conciliare due sistemi morali. Uno di diffusione recente, adottato di fresco e che quindi le sta a cuore, che sente come importante. L'altro, solidamente radicato nella coscienza collettiva della società, che come tutti continuano a ripeterci è una società di mercato, per cui l'unico consiglio che si può darle forse è quello di cercare di agire sul mercato. Signora, continua a impegnarsi con sempre maggiore assiduità nella causa animalista. Se questa causa trionferà, nessuno vorrà più comprare le pellicce. Le pellicce non avranno più mercato, il che vorrà dire che non varranno più niente e potrà buttarle via con assoluta tranquillità. Come diceva, non ricordo più chi, il vero problema è sempre quello di cambiare lo stato di cose presente.